Ego 99. Y después del caos, cada cultura, cada pueblo ha creado un diálogo que reconoce distintas tradiciones. Lo único que nos une para entender nuestra humanidad es el lenguaje de las emociones, el idioma universal, la música. Babel. Babel, música del mundo. Babel, música del mundo. Babel, música del mundo. Babel, música del mundo. Music of the world. Babel. Queridos viajeros, sean cordialmente bienvenidos a una emisión más de Babel. En esta ocasión quiero invitarles a que abran su imaginación y juntos podamos recorrer la bota europea. Así es, nos vamos hasta Italia. ¿Para qué? Para disfrutar de sus olores, de sus sabores y, por supuesto, de su buena música. Así es que están ustedes listos porque despegamos. Thank you. Babel. Babel. Escuchas, escuchas Babel. Bienvenuti, o sea, bienvenidos. En Italia así se dice. Y es que en esta ocasión nuestro recorrido estará lleno de visitas a las cocinas de esta región, donde podremos disfrutar de una buena pasta, la famosa pizza, o también qué tal conocer el origen del risotto o el buen prosciutto, y deleitarnos con una buena copa de vino con la mejor música del mundo, Putumayo World Music. ¿Qué más se puede pedir? Babel. Quante stelle nel cielo con la luna, sono luci che accendono gli amanti, e più brillanti sono e più penso che le stelle brillano per me e per te. Amore, amore, amore, a perdi fiato, quante volte di notte t'ho sognato e t'ho cercato dal mare fino al monte, come assetato cerca la sua fonte. Quando lo trovavo come un vento di primavera, sfiorava la mia mano, poi di nuovo lontano era. Amore, amore che inganni, profumi d'aria di maggio, ti tocco, ti credo vero, svanisci come un miraggio. Amore che viene e che vai come una cosa leggera. Non andare via. Questa volta un fiore non si è seccato. E l'ho bagnato con l'acqua di fonte. Io l'ho difeso dal vento del monte. E l'ho nutrito a tutte quante l'ore. Amore, amore, amore, amore, amore. Svanisci come un miraggio, amore che viene che vai, come una cosa leggera. Non andare via. Sin fronteras. Babel. Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me, il mio braccio ti darò e con me ti porterò in un piccolo e nascosto caffè. C'è la macchina dei dischi che va, tanta musica per noi suonerà, con Sinatra, Johnny Ray, Frankie Lane e Doris Day, ogni cuore sognerà. Jukebox è una magica invenzione, jukebox, pochi soldi una canzone, jukebox, un gettone la felicità. Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me, il mio braccio ti darò e con me ti porterò in quel piccolo caffè. Per sentire una canzone con te. Magica invenzione, jukebox, pochi soldi una canzone, jukebox, un gettone la felicità. Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me, il mio braccio ti darò e con me ti porterò in quel piccolo caffè. Per sentire una canzone con te. Babel, Babel. Italia es un país que le ha exportado al mundo su gastronomía. Así es, la historia nos cuenta que la comida italiana recibió influencias de otros países como Grecia, África y los países asiáticos. Los griegos, africanos y asiáticos que se establecieron allá trajeron sus comidas y maneras de cocinar. Por ejemplo, los griegos hacían un pan muy plano, con el cual seguramente se llegó a la creación de la pizza. El hecho de comer para los italianos no es un acto sencillo, tiene un significado bastante mayor. Es un momento de socialización, un momento de unión con la familia, y de esa unidad con la familia se dice que nacieron todos estos platillos deliciosos con la idea de compartir. Babel, Babel. Adriana tutte magi, Oriona traiana scola, Adriana tutte magi, ne se vesto sol. Adriana tutte magi, non te li è genie da saluta, Adriana tutte mattine te ne caffa. Ecco gute te, a nanna già non s'andeva, a non s'ora da già risa da faceva. Scenda mia via, che voglio una voglio che mille lira vedi e l'ora sa parrubba. Si femmina già sett'anni non ce può fa, quando passa l'uomo guarda ne ti accina. E passi da sto burde, niente se da che zumba se te la mia. Adriana tutte madì, Orione traiana scuola, Adriana l'ha già vista e tu mi guardati dall'occhio e poi mi fa capire che no, ma no, e la strada via e con l'uomo ne voglio che meglio allora ma è sorte da sai fa chi si vecchia ci avvindano che ci può fa quando passa l'uomo guarda e ti aggira e fa scia da sto bordello e te te da che zumba sei te la via Maria. Si ustedes han estado en Italia, háganos sus comentarios a través de nuestro correo electrónico byvabel@prodigy.net.mx y díganos qué les parece la música que está contenida en Italian Café e Italian Music Odyssey de Putumayo World Music. Lo pueden hacer a través de nuestro correo byvabel@prodigy.net.mx o bien 5547-0489 o terminación 7643, anteponiendo la clave helada en la Ciudad de México. Sigamos con nuestro recorrido a través de la imaginación, de la buena música y de los buenos platillos de la cocina italiana. Carina, diventi tutti i giorni più carina. Ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non ha il coraggio di mentire. Carina, allegra e spensierata sei carina, ma con il broncio sembri ancor più bella, tu sei la stella che manca in cielo. Perché carina, carina, carina sei tu, simpatica e dolce ogni giorno di più, e col tuo candore carina tu sei fatta per amare. C'è gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non ha il coraggio di mentire. Carina, spensierata sei carina, col broccio sempre ancor più bella, tu sei la stella che manca in cielo. Perché carina, carina, carina sei tu, simpatica e dolce sempre di più, e col tuo sorriso carina tu sei nata per amare. Carina, tu sei fatta per amare. Escuchas, escuchas Babel. Música sin fronteras. La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Milan Kundera. Ego 99. Continuamos con Babel. Babel. Yo me aspettavo, sai da te, una risposta con mil fu, e invece niente, invece no, un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo, sai da te, qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne. Avevi tutto per piacere, gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu, in ogni ambiente un figurone, sorrisi, invidia, profusione, ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una stangona così, ma la conversazione in me si riduceva a dei gni gni, gni gni gni gni gni gni. Rivista alla TV, 10 anni dopo forse di più, un calendario sopra tu, solite pose, un cliché déjà vu, ci dica che progetti ha, posare nuda, ma perché, è stato imbarazzante o no? All'orizzonte un fidanzato, ora c'è una studiata pausa e lo hai seppellito di gne gne Escuchas Babel. Seguimos en este delicioso recorrido por la bota italiana. Italia, por tener un clima y un suelo variado, produce una variedad de cereales, frutas y legumbres. Por ejemplo, en el norte podemos encontrar el trigo, arroz y maíz. La gente del norte usa esos cereales para hacer sus platos tradicionales. El risotto, cuando se trata del arroz, o la polenta, que es un tipo de harina hecha de maíz, el cual puede ser asada o cocida. La polenta, en tiempos lejanos, fue un plato típico de las familias pobres del norte de Italia. En el sur de Italia, el clima es más seco y rocoso, y los granjeros que viven en esta área plantan aceitunas para comer y también para hacer el riquísimo y delicioso aceite de olivo. El aceite se usa mucho en la comida italiana. También en el sur, a la gente le gusta preparar la comida con muchos condimentos. El orégano, por ejemplo, es un tipo de condimento típico de la cocina italiana. Thank you. Y algo indispensable en la comida italiana definitivamente es el queso parmesano, que fue en el año de 1840, en Liguria, cuando los quesos más usados eran el gorgonzola, el mascarpone y el lodigiano. Estos son diferentes quesos que se usan en diferentes platos. No se puede decir con certeza quién inventó la pasta. Hay relatos de que Marco Polo trajo la pasta del Oriente, pero también se sabe que él volvió a Italia en el año 1295 y que antes de esa fecha ya había informaciones de la existencia de la pasta. Algunos afirman que fueron los árabes que inventaron la pasta, pues conocieron el trigo antes de los italianos. Bueno, hasta hoy todas estas historias son muy cuestionables, pero de una cosa los investigadores sí tienen la certeza. El clima de Italia siempre fue bueno para el crecimiento del trigo duro, de donde viene la sémola. La sémola se usa para hacer las pastas secas, y las pastas secas se hicieron populares en los siglos XIV y XV, y en el siglo XVII se hicieron parte importantísima de la dieta italiana, porque era un plato económico que se podría adquirir fácilmente y muy versátil en su sabor. Y definitivamente es una comida muy bella, porque atrás de cada pasta hay toda una historia y significado en cada platillo. Non ti fidare d'un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare, perché, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare fantastica. Ma come farò senza più amare? Ma come farò senza baciare? Ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare. Luna, luna, tu non curiosare. Luna, luna, tu non far la sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore. Ogni stella in ciel parla d'amor. Ogni stella in ciel sarà la mia stella. Mezzanotte per amar, mezzanotte per sognar fantastica. Non ti fidare d'un senza bacio a mezzanotte, ma senza baciar, se c'è la luna non mi fidare, perché, perché la luna non mi guardare, mezzanotte non curiosare, riesci sempre a farla sentirella. Non ti fidare di stelle galeotte, ogni stelle in cielo parla d'amore, ogni stelle in cielo sarà la mia stella. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare fantastica. Imagina, imagina sin fronteras. Babel, Babel. Sali per le scale con l'andamento di chi sa che porta a bussare, sinuoso e ben tornito, e credo tu abbia capito. Che grava la sabbia e scompare, vai e vai, lasciando soltanto un'orma di mare. Le tue mani conoscono il freddo e la pioggia che ha intriso i tuoi pantaloni, sai, di basilico e menta, ti muovi tra storie di antiche memorie, vai. Vai, scivolando nel cavo di un palmo di mare. dissi per me un pensiero e una casa, e se tu costruissi per me un porto nel mare, io sarei tuo amante, tuo custode. Il tempo lasciato a rincorrer presente e passato, lascio il passo alla mia meraviglia dal profumo di timo e lavanda, e noi come Edera ci rincorriamo su un muro, e noi a piantare radici nel tempo futuro. Comunícate 5547-0489 en la Ciudad de México. Babel, la famosísima pizza, no es muy antigua. Pese a ser uno de los máximos exponentes de la cocina italiana y quizá uno de los platillos más reconocidos en el mundo. No cabe duda que desde el siglo XVIII debió de existir este platillo, pero solo es una suposición. El tomate llegó a Italia en el año de 1554, llevado por los españoles. Era un fruto pequeño que los italianos supieron sacarle muy buen partido, hasta el punto de ser la base de casi toda su cocina, siendo la salsa de tomate el máximo exponente de su ingenio. Solo hay tres fórmulas básicas para hacer la pizza: a la Porta San Gennaro, a la marinera y a la margarita. Todo lo que salga de estas formas solo son puras imitaciones que nada tienen que ver con la original. Se dentro de me una mattina lo fuoco bruciasse fino a che l'acqua non potesse spegnere, renasceria come animale o come l'erba, cosciente de vive senza età, correndo lontano porteria. Arilla, terra, porta la corda, floglie una strella, fior de mimosa, fiore de canto, fiore de rosa, mani de sera, lo mondo spera. Arilla, terra, arilla. Se io cagnassi come un animale, veloce volando passeria, l'usenno alla gente porteria, recambieria come una luce o come l'aria, cosciente de vive senza età, seguendo la strada ritorneria. Arilla, arilla, porta la corda, floglie una stella, fior de mimosa, fiore de canto, fiore de rosa, mani de sera, non spera. Illa, illa terra, illa. de mimosa, fiore de canto, fiore de rosa, manilla de seda, luna espera, y la mar, y la tierra, y la Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la cultura culinaria, en donde se puede observar lo importante que es sobre todo para los italianos, quienes hoy en día están a favor del slow food en contra del fast food al que los americanos están muy acostumbrados. Y yo estoy a favor también de disfrutar con tiempo la comida, el vino y la buena música que estoy seguro han ustedes disfrutado, extraídas de Italian Café e Italian Odyssey de la serie Putumayo World Music. A nombre de nuestra producción, Yael Algranti, Cintia Uribe, nuestro capitán en cabina, Jesús Astorga y Bernardo Janselson, queremos desearles a todos ustedes tengan una semana de apertura a otras culturas, acompañado de una buena dosis de amor universal. Esto ha sido una producción de Global Rack para Putumayo World Music, derechos reservados, México. Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti sacrifici. Dopo moscardini per me, sì per me. No, per lei davvero che lei proprio non. Forse ponte bene una carota ed un po' di riso in bianco, ma rigorosamente senza burro e senza sale. Ora un po' di torta per me, sì per me. A lei porti un tazzo di carcane. Triste la tua dieta al ristorante, mentre mangio come un elefante. Tu hai vinto di niente. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì. Ne può bere amari finché vuoi. Per mandar giù la carota e il riso, quello senza burro e senza sale, e senza un poco di allegria.